punk è morto, la moda l'ha ucciso. Il punk è morto, anarchia è un nuovo di gioco di società. Il punk è morto, nessuno spazio per chi lotta. Il punk è morto, giubbotti e morchi solo a carnevale. Il punk è morto, ma non per me. Il punk è morto, Marinacchi l'ha ucciso.